Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui da tutti quanti, come ricorda Anacleto, una buona settimana. Le 9-8 minuti siamo in diretta dagli studi di Radio 24 a Milano, fino alle 11 con voi, il nostro Leonardo Manera in arrivo virtuale oggi, credo, virtuale, sostituito da Maria Piera Ceci. No, ma Maria Piera Ceci arriverà tra poco per parlare di scuola. Oggi parleremo molto di scuola. Devo dire che è stato anche emozionante vedere a Milano oggi orde di ragazzini e bambini in giro con la cartella. Traffico esploso, ma si sapeva, però dai, va bene così. Saluto, perché mi manda un grande saluto e ricambio, Tommaso, che inizia la prima elementare. Oh, che bello, che giorno, che momento. Voi ve lo ricordate? Tu te lo ricordi, Alpino, il giorno della tua prima elementare? Elisabetta Fusconi mi guarda, non ricorda niente. Ma l'hai fatta la prima elementare? L'ha fatta. Tu, neanche io ricordo niente del primo giorno di prima elementare. Tra l'altro, non avendo fatto l'asilo, per me è stato proprio il primo giorno di scuola, quindi deve essere stato un trauma terribile. Però in prima elementare spesso scappavo da scuola fingendo che il bidello avesse già chiuso la porta e tornavo a casa dicendo: mamma, era chiusa la porta, sono arrivato in ritardo, colpa del papà. E ho accumulato una serie di assenze per cui ho rischiato di essere bocciato in prima elementare. Giuro, non è una barzelletta. 9-10 minuti, vai Alpino. I will not be easy and it will not be easy. Eccoci qui, dobbiamo parlare di scuola oggi, inevitabilmente. 5 milioni a scuola, altri no. E, ripeto, è stato emozionante, bello vedere tanti bambini, bambine, ragazzi, ragazze che andavano con gli zaini pieni, chi con i genitori, chi no, chi a piedi, chi col monopattino, chi con i SUV a scuola. Un momento di ripartenza importante. Il commissario straordinario per il virus, Domenico Arcuri, forse cade un pochino nella retorica quando dice addirittura che dovremmo emozionarci. Viviamolo così, come un giorno di festa, emozioniamoci e rimaniamo sereni. Beh, soprattutto rimaniamo sereni. Sentiamo anche il Premier Conte. Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio. La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall'attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate, che vi amano. Bisogna essere tranquilli, sereni, andare serenamente. Mi è piaciuto molto anche l'entusiasmo di Liliana Segre dall'alto dei suoi 90 anni. Gli auguri di Liliana Segre a tutti gli studenti. Sono felice di fare un enorme augurio ai ragazzi che domani tornano a scuola, dicendo a loro che sono fortissimi e che prendano loro sulle spalle il problema a scuola con la loro attenzione e con la loro voglia di imparare. Vabbè, in tutto questo devo dire, poi c'è sempre lui, il personaggio, De Luca. De Luca, presidente della Regione Campania, io non lo so che cosa abbia. Cioè, sentite in questi 20 secondi come si autoelogia, no? Com'è chi si loda, si imbroda. Cioè, De Luca praticamente dice, siamo i migliori al mondo, siamo stati la regione stupenda, siamo di qui, siamo di là, dopodiché non aprono le scuole in Campania, cioè fanno slittare, vogliono, dice, non sappiamo neanche se le apriremo il 24, dice il Covid. Invece che il Covid, però De Luca è De Luca. Nessuno si aspettava che la Regione Campania reggesse così come ha retto l'epidemia Covid. Abbiamo dato una prova nazionale di efficienza, di capacità amministrativa, di rigore, di coraggio. Abbiamo anticipato sempre di 20 giorni le scelte che poi ha fatto il governo nazionale o altre regioni. E vabbè, De Luca è De Luca. Dai, tuffiamoci a ragionare il mondo della scuola. Io sono molto felice, anche orgoglioso, di poter annunciare come primo ospite uno scrittore molto famoso, molto amato, e anche un fisico, per cui uno che i dati, i numeri li sa maneggiare certamente molto meglio di me, su questo non c'è dubbio. Paolo Giordano, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno a voi, grazie. L'ultimo suo libro, voglio ricordare, Nel contagio, per Einaudi, proprio ha affrontato tutti quelli che sono stati i mesi più drammatici. Lei tra l'altro ha scritto, secondo me, un bellissimo articolo sul Corriere della Sera venerdì, parlando della paura. Allora, la vuole affrontare prima da scrittore o da fisico, da uno che conosce i numeri? Sa perché? Glielo dico perché oggi il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, intervistato al Corriere della Sera, dice: ricordiamo che siamo pur sempre il paese con la più bassa incidenza di casi, 27 per 100.000 abitanti, cioè, se lei mi corregga, lo 0,027%, sempre dei tamponi che si fanno. Allora, partiamo da qui? Sì, il punto è proprio unire l'approccio della paura, come dire, individuale, istintiva, che tutti abbiamo oggi, credo. Oggi è una giornata che normalmente è una giornata di festa, oggi è una giornata di festa con molta apprensione, soprattutto per chi, soprattutto per gli insegnanti, ma anche per i genitori e per tutti altri noi. Però a questo bisogna aggiungere veramente d'ora in avanti una forte quota di razionalità, perché c'è stato un momento in cui la paura ci serviva quando non sapevamo la vastità dell'epidemia, come ci aveva colpito, e ci serviva per bloccarla e per restare noi soprattutto fermi e iperprotetti. Da qui in avanti la paura deve essere sempre modulata rispetto al livello di marea del rischio, diciamo. In questo momento non riapriamo in una condizione di altissimo pericolo. È chiaro però che non riapriamo in sicurezza, come è stato ripetuto. Perché non le è piaciuto questo slogan? Lei ha detto non mi piace, perché dà l'impressione che state sereni, state sicuri, invece un rischio, una serie di nuovi contagi ci sarà, inevitabile con la riapertura delle scuole, no? Perché è sempre un po' questa sbandamento, non riusciamo a trovare una quadra tra l'allerta e l'assenza di allerta, tra il lockdown e l'estate un po' liberi tutti, come è stata. E invece, se vogliamo avere un anno scolastico, ma anche una vita negli altri ambiti normale o paranormale, bisogna trovare un equilibrio tra questi due elementi. È chiaro che la scuola non può riaprire in totale sicurezza, e dirlo purtroppo farà pensare ad alcune persone che la sicurezza venga dall'organizzazione, dai banchi a rotelle, dalle mascherine. Sono cose importanti, ma non bastano. Qua senza l'elemento della responsabilità di ogni singolo e della vigilanza e dell'allerta costante, non, la sicurezza non è sufficiente. Sì, lei ha fatto anche un richiamo, e io lo condivido, al mondo dell'informazione. Ci saranno appunto delle scuole, magari delle classi che chiuderanno, dei focolai, delle problematiche. Qui bisogna intendersi. È certo che se accenderemo la TV, accenderemo la radio, leggeremo i giornali e troveremo i titoli a caratteri cubitali, come lei dice, isolata la scuola di Pinco Pallino, il paese, o contagiate due classi di Ricordiamo che statistica, ecco, e qui vengo alla sua padronanza dei numeri. Se chiude una scuola, adesso non so quante scuole ci siano in Italia, ma vuol dire che ce ne sono decine di migliaia aperte, però fa notizia quella che chiude. È strana questa idea di dover ragionare anche per grandi numeri, no? Non siamo abituati, che ognuno di noi guarda per sé e il proprio osservatorio immediato diventa un po' la statistica universale. Ecco, se così facciamo, non sarà un anno scolastico né facile né addirittura possibile, e se lo fanno i giornali e i media in generale, tanto meno, nel senso che è evidente che ci saranno delle situazioni critiche e probabilmente saranno anche un numero consistente, però da adesso in avanti bisogna sempre avere la forza di valutarlo rispetto alla totalità, in modo percentuale. Lei citava giustamente l'intervista di Locatelli di questa mattina, e Locatelli fa un riferimento alla situazione, ai numeri, ai grandi numeri. Ecco, questo mi sembra un po' uno specifico dell'epidemia, no? Siamo singoli, ma siamo anche immersi in una statistica di grandi numeri. Per quanto questo sia un po' forse crudo da dire, non possiamo non permetterci di tenerne conto. Eh sì, c'è l'aspetto emotivo di chi dice e contrappone a questo: lo so, ma in famiglia mia ho avuto tot casi, e vanno rispettati, per carità, vanno assolutamente rispettati, però se io leggo 27 casi per 100.000 abitanti, allora intanto ci aiuti a capire, perché molti hanno posto: sì, ma se si facessero più tamponi, però la statistica insegna che il rapporto più o meno dovrebbe rimanere quello, no? Diciamo che qua bisogna anche, al di là del dato percentuale secco, bisogna un po', non dico fidarsi, però sentire che al momento la situazione epidemiologica a livello di controllo e di tracciamento sembra essere sotto controllo, almeno questo ci dicono, non ci sono linee o focolai completamente sfuggiti o impazziti. Questo potrebbe non essere così nel momento in cui c'è una moltiplicazione molto forte. Tutto sta sempre alla tenuta del sistema di sorveglianza e del sistema sanitario, ovviamente rispetto al numero di casi e alla loro diffusione anche. In questo momento quello che ci dicono è che la situazione è monitorata, cioè i casi non sono, non c'è una parte invisibile enorme. E ricordiamoci che a inizio marzo noi conteggiavamo probabilmente un quinto, se non addirittura un decimo di quelli che erano i reali contagi, quindi non sapevamo su cosa eravamo seduti sostanzialmente. Certo. Ora sì, questa è la differenza fondamentale. Se la situazione di nuovo dovesse un po' sfuggire, in questo senso è stato anche, secondo me, importante anche il richiamo che è stato fatto sulla app Immuni, che c'è già un po' un'idea che ma l'app non è servita, quindi lasciamo perdere, andiamo oltre. In realtà si entra proprio nella fase in cui potrebbe essere utile invece. Certo. E quindi di nuovo diventa un dovere civile prepararsi a questo. È molto interessante il messaggio che arriva in diretta. Un ascoltatore o ascoltatrice scrive: buongiorno, va bene la statistica, ma io c'ho FIFA lo stesso. Ecco, qui forse il Paolo Giordano, scrittore, che dice: della paura individuale va tenuto massimo rispetto e massimo conto, perché delle emozioni dei cittadini va tenuto conto. Forse può dare una risposta. Cosa possiamo dire? Cosa può dire come risposta Paolo Giordano? Ma io intanto posso dire che anch'io ho paura, cioè anch'io non sono tranquillo. Un ragazzino che comincia oggi la scuola, quindi come dire, che mi porta automaticamente più vicino al contagio, una famiglia di insegnanti. Io comprendo che poi il discorso fatto sui grandi numeri si possa continuamente opporre il fatto: sì, però intanto io devo andare in classe, oppure io devo portare il figlio. E questo è, come dire, un paradosso un po' insanabile, uno dei tanti in cui ci troviamo. Il problema è che non abbiamo scelta. Un passo verso una quotidianità più strutturata lo dobbiamo veramente a queste giovani generazioni, perché sono state trascurate moltissimo e messe da parte più di tutti gli altri. Eh sì. Per concludere, Paolo Giordano, lei nel suo libro, appunto, Nel contagio, racconta molto bene come siamo sempre più connessi, è inevitabile. Questa iperconnessione però è ciò che permette al virus di stappare lo champagne, è inutile. Allora, come si riesce a districarsi da questa situazione? Lei richiama al dovere della solidarietà, perché? perché di nuovo si tratta di pensarsi contemporaneamente sempre come singoli, che è quello che ci viene più facile, perché il mondo è costruito in modo che ci pensiamo sempre solo come singoli, ma anche come collettività in cui adesso c'è questo problema. E tenere insieme le due cose in realtà per me è un po' il fulcro della solidarietà, ricordarsi che siamo immersi in comunità che sono comunità molto allargate, quindi le responsabilità, le vigilanza che dobbiamo mantenere, tutto questo è mantenere un livello, cioè una parte della testa connessa a questa totalità. E a marzo lo eravamo molto, sì. Secondo me è molto istruttivo ritornare con la mente spesso a quel momento quando era così facile pensare a livello di noi piuttosto che a livello di io. Ecco, un pezzo della nostra mente deve restare legata a quel momento. Eh sì, per non perdere quel senso di comunità. E devo dire che gli italiani hanno risposto, va sempre detto, in maniera molto molto ligia quando qualcuno aveva dei dubbi a riguardo, vista la nostra indole all'individualismo. Paolo Giordano, io la ringrazio moltissimo, voglio ricordare il suo libro appunto Nel contagio per Einaudi, sembra una voce importante quella con cui abbiamo cominciato, vabbè poi è inutile ricordare La solitudine dei numeri primi, insomma il best seller che ha lanciato facendogli vincere lo Strega qualche anno fa, Paolo Giordano, scrittore e fisico. Continuiamo sul tema scuola, perché guardate qui che mi è entrata una Maria Piera Ceci, la nostra Maria Piera Ceci. Cosa ci fai? Non hai portato il coprimicro, sei arrivata signor. Qui, non hai portato il coprimicrofono. Giornata complicata pure per noi, abbiamo misurato la febbre al figlio, siamo venuti qua, insomma, sì, quindi sì, buono con me. Ma perché, scusa, è scritto sul diario? Ah, no, ma tu tanto no, non lo devo scrivere io sul diario, però è giusto che dimostrassi a mio figlio che le regole vanno seguite, quindi anche se ero sicura che non avesse la febbre, gliel'ho misurata, 35 e passa. Tu l'hai misurata? Passa, sì, infatti è un po' Genco. Poco, un po'. Anche io me lo sono chiesto. Però se tu l'avessi visto non ti saresti stupito del 35. Ma certo che l'ho misurata, io ho comprato anche una di quelle pistole, così perché la comodità... Spara temperatura. Sì, con i bei 30-35 euro, non lo so quanto, sì, quanto ho speso. Sì, lo faccio anch'io. Va bene. Ma non l'hai ancora fatto? Cioè, no, ancora il termometro... Sì, però digitale, no? Sì. Ah, quello va bene. Dai, sono le 9:24 minuti e quando c'è Maria Piera Ceci il lunedì bisogna andare tutti a scuola, ragazzi. Brillantone stamattina. Che bella questa sigla. Me la rimandi al filo, dai, rimandamela due volte, dai. Ancora. Voglio sentire tutti a scuola. Oh. Eccoci qua. Vabbè, stamattina è azzeccata questa sigla, sì, perché finalmente qualche bidello avrà detto tutti a scuola, ai ragazzi che chissà se sono riusciti a non fare assembramenti fuori dalle scuole. Io sono venuta, lo dicevi anche tu, no? Ci sono un sacco di ragazzi in giro. Ho visto un po' di tram mezzi vuoti, quindi probabilmente sta anche un po' funzionando, almeno su Milano, davvero non ho elementi statistici, è solo quello che ho visto. La contingentazione, come si dice, il contingentamento ma io guarda dico che secondo me molto banalmente molte persone per timore hanno preso la macchina, almeno io lo vedo dall'intasamento, anche qualche bici in più ho visto, perché finalmente le scuole hanno comprato qualche rastrelliera in più. Era ora, era così difficile comprare qualche finché regge il bel tempo. Beh, sì. Vabbè, in Danimarca vanno in bicicletta anche a gennaio. Questo è vero. È una banalità. Ricordiamo, Maria Piera Ceci, che si dice tutti a scuola, eccetera, non tutte le regioni partono oggi. Sono 5 milioni e rotti di studenti. Il Friuli il 16, la Sardegna il 22, poi un gruppettino tu hai capito. Ammesso che partano. Certo, e comunque molto. Alcune città, anche nelle regioni in cui si parte, tipo la Liguria, si è deciso di aspettare un attimo perché hanno trovato qualche positivo, perché dicono non sono pronti. Guarda qua un ascoltatore, ascoltatrice, Lisa da Varese, ma che rientro? Mio figlio inizia con la didattica a distanza un'ora, dalle 10.40 alle 11.30, ma dai, purtroppo succede. Sì, perché nella scuola secondaria, quindi insomma le superiori, in effetti è stata data facoltà alle scuole di scegliere anche, però questo anche anche nella disposizione è finita che già sono tutti a didattica a distanza, anche vabbè, mio figlio. Adesso, vediamo un po', diteci la vostra al 349-238-6666. Io voglio salutare Antonello Giannelli che torna qui, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Giannelli. Ecco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno e buona scuola. Io le faccio la prima domanda. La prima domanda provocatrice: ma perché chiedete il certificato medico dopo 3 giorni di assenza? Cioè, il perché ce lo può spiegare, ma questo va a complicare ulteriormente le famiglie, le vite delle famiglie, no? Già le prese con termometri, la Ceci neanche c'è quello con la pistola, ancora d'ascella. Vabbè, prego Giannelli. Sì, allora preciso che si tratta di una richiesta e quindi dovrebbe essere approvata dal Parlamento o comunque dal governo per diventare effettiva, perché riteniamo che si tratti di una misura di sicurezza da reintrodurre. Io ricordo che il certificato medico era previsto in tempi passati per il rientro a scuola dopo 5 giorni. Sì, di poi a un certo punto è sparito. È sparito perché, chiediamocelo, perché le malattie infettive, quelle esantematiche tradizionali, di fatto sono state debellate. Poi abbiamo avuto una recrudescenza grazie ai vaccini sono state debellate, infatti. Abbiamo avuto una recrudescenza qualche anno fa, che è la ragione per la quale poi il famoso decreto Lorenzina ha reintrodotto, riformulato l'obbligo, però diciamo che era una partita vinta. Cioè, insomma, i presidi devono capire dopo 3 giorni se sono stati a sciare o se hanno avuto qualche malattia, poi la sostanza è questa, discernere fra le due cose. Esatto, la sostanza è questa, ma soprattutto discernere tra un'influenza e qualcosa di più serio, per cui la mia richiesta è esattamente in questo senso, poi non è 3, insomma si è detto 5, però diciamo, si vedrà, perché sono ancora tante cose, no? Che si vedrà nel frattempo, però voglio dire, stamattina stanno a scuola. Senta Giannelli, io ho lavorato nel fine settimana e mi ha, tra virgolette, divertito un po' questa dichiarazione dell'Azzolina che dice, l'Azzolina ha parlato di qualche piccola criticità, che ogni tanto se si sentisse mentre parla, io dico mascherine che non sono arrivate in tutte le scuole, questo è accertato, 2 milioni di banchi che sono ancora da consegnare, 60.000 cattedre non ancora assegnate, 170.000 alunni disabili che non trovano il proprio insegnante di sostegno, qualche piccola criticità? Ma è chiaro che il politico di turno al governo minimizza e probabilmente chi è all'opposizione massimizza. Quindi bisognerebbe sempre essere nel centro. Noi che siamo del tutto apartitici cerchiamo di essere molto neutri. Come abbiamo detto, le criticità ci sono, non vanno ignorate, non vanno neanche saltate. L'importante però è riuscire a correggere il tiro in corsa. Quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che noi abbiamo fatto ripartire una macchina enorme che ha problemi da sempre. Ora, con il Covid non è che i problemi diminuiscono, i problemi semmai aumentano. Ecco, questo mi sembra un'affermazione di una banalità assoluta che però non sempre si ritrova nel dibattito quotidiano. Certo, però Giannelli, sono anche arrivati un po' di soldi finalmente alla scuola, quindi magari chissà che quando tutto questo ambaradan sarà finito non resterà qualcosa di buono alla scuola, se non altro questi banchi nuovi, ecco, minimo. Io ne sono convinto, do atto, l'abbiamo fatto più volte al governo e alla ministra, di aver fatto arrivare sicuramente molte più risorse che in passato, però dobbiamo riuscire, dobbiamo avere il coraggio e la capacità progettuale di andare al di là dell'emergenza. Voglio dire, i banchi vanno benissimo, le mascherine vanno benissimo, noi però dobbiamo ripensare la nostra scuola che aveva tanti problemi prima del Covid. Ne dico una per tutte, il divario terribile negli apprendimenti tra il nord e il sud, tanto per cambiare. Mm-hmm. E quindi dobbiamo fare in modo che questo si sani, dobbiamo fare in modo che la scuola ritorni a essere un ascensore sociale, funzione che ha perso da molto tempo, come dicono tutte le indagini. Devo dire, noi nel ringraziarla Antonello Giannelli, arrivano tantissimi messaggi, per esempio Andrea dice: mio figlio ha iniziato giovedì scorso, tra l'altro mi dice come il tuo, e devo dire che l'esperienza dei primi 2 giorni è stata traumatizzante, mi dice non sa come si farà a resistere un anno in queste condizioni, speriamo nella tenuta psicologica. E ma guarda Piera, che anche mio figlio ha detto è un po' un incubo, cioè giro e la professoressa mettiti la mascherina, mamma mia. Cioè, il mio invece è molto seccato perché gli hanno diviso la classe metà scuola, metà casa in didattica a distanza e non vede i suoi amici. Tu invece hai diviso una regione, cara Maria Piera Ceci, quando parli di Friuli devi dire giustamente Friuli, Venezia, Giulia, se no ci arrivano le proteste corrette. Fulvio da Trieste, per esempio, quando ci dice, è giusto. Sono dalla Venezia Giulia, che non esiste per me. No, no, ha ragione. No, esiste ha anche ragione. Per Maria Piera Ceci, certamente, dai. Friuli, Venezia, Giulia. È che bene. Milan mi mette sempre fretta. Allora, per reassumere, no? È questo, guarda, questo oggetto che si chiama clock in radio ti mette fretta. Io sono solo il tramite del clock. Io sono un clock umano. Non è che ti metto fretta io. Comunque, stai qui che dopo la pubblicità continuiamo a parlare di scuola con un'altra ospite e chi si muove? Con i vostri messaggi, se volete. Uno, nessuno, 100 Milan. Questa mattina sono un po' triste perché vedo tanti ragazzi che vanno a scuola. Penso a mia figlia che ha 4 anni e mezzo, che dovrebbe fare il secondo anno di asilo. E per scelta mia e della mia compagna la teniamo a casa perché sono una partita IVA. Per me le sue influenze riportate a casa porterebbero di conseguenza degli stop lavorativi forse non possiamo permetterci. Sì, per i piccoli in effetti sono molti mi hanno raccontato questa roba, no? Che li portano a scuola, soprattutto il nido che costa un bel po' di soldi, e se poi stanno male devo comunque chiamare una babysitter. Allora a questo punto la babysitter, se già devo pagarla, o i nonni, ma come? I nonni li lasciamo tranquilli, che ho capito. In questa situazione li lasciamo un po' tranquilli, Sì, sì, ma guarda che anche oggi anche Franco Locatelli giustamente dice: i bambini vanno a scuola e poi dai nonni, non è pericoloso? È poco sostenibile che i bambini non debbano avere contatti con i nonni, sarebbe una deprivazione di affetto. Finalmente comincia a vedere un po' di logica nelle cose, un po' di logica. Che devi fare? Cioè, allora viviamo tutti come delle monadi, come direbbe Cacciari, no, ma poi, tutti isolati. Monadi, se si potesse, perché i bambini appunto, da soli non possono stare a casa. Quattro anni qualcuno, attenzione che arriva sempre quello, sai cosa ci mandano nei messaggi a questo punto? Quello che dice: se non siete in grado di stare coi bambini, perché li fate? Guarda che arrivano questi messaggi qua, perché vabbè, li fate? Ignorali, cioè, questi messaggi ignorali, facciamo finta di non vedere. Allora, voi non sapete, ma Maria Piera Ceci è una malefica. Sì. Perché ha pensato per la nostra ospite, che conosce tra l'altro, prima l'ha invitata e adesso ha pensato, giuro, quello che sta per le succedere è una tutta trappola. Farina del sacco di Maria Piera Ceci. Salutiamo la professoressa Valentina Petri, che insegna italiano all'Istituto Lombardi di Vercelli. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Valentina, salve a tutti, in diretta direttamente dalla mia classe. Oh, esatto. Valentina, prima di cominciare subito, no, aspetta, il allora paradigma di Orao. Vai. No, assolutamente no, no, l'ho scritto veramente, siete pessimi. No, è stata la Ceci ancora, è stata Maria Piera Ceci. Ma forse era Eikon, non mi ricordo. Lo so, è un verbo politematico, quindi difficile, perché stamattina Valentina sul suo blog ha scritto: mi sembra, ho l'ansia addosso di tornare a scuola. Non so mai, il futuro. Bene, bene. Come se dovessi affrontare il mio primo giorno al classico, in una delle classi del classico, e aspettarmi l'interrogazione di greco, quindi te la facciamo noi. Perché io avevo una prof che il primo giorno interrogava, io invece non sono mica così cattiva. Il primo giorno? Non lo so, però è un'idea, ragazzi. So. Ma infatti, ma è direttamente in classe, dobbiamo fare una di quelle cose. In classe, potete fare ciao Radio 24. Ecco. Fantastico. Che classe è? L'Istituto Professionale Lombardi di Vercelli, intanto cominciamo a dire. È la seconda moda ottica, una classe articolata. Seconda su moda, quindi saranno molte ragazze. In parte, ma non tutte. Ci sono anche grandi stilisti uomini. Come no. Valentina, scusami, siccome nel tuo libro e nel tuo blog Portami il Diario sei davvero sempre molto brava a descriverci gli occhioni e le faccette dei ragazzi che arrivano a scuola, mi devi descrivere la faccia dei tuoi ragazzi e delle tue ragazze questa mattina quando sono entrate in classe dopo 6 mesi di scuola. E la stanno guardando, quindi non è che ma io ho visto grandi sorrisi, poi facevo fatica a distinguerli perché erano tutti mascherati, no? Cappucciati, mascherati, vedevo solo gli occhi, quindi dei manga praticamente, e adesso li ho davanti con smascherati e sono, cavolo, io non li vedo dalla fine di febbraio, non so cosa si sono mangiati in quarantena, io lo so, cioè, mi sono solo allargata, loro si sono allungati, alzati tantissimo, sono bellissimi. Sì, sono belli. Insomma, tu, questi mesi sdraiati sul letto a fare didattica a distanza li ha comunque allungati, come è giusto. Sì, no, loro si allungano comunque perché hanno un metabolismo pazzesco. Certo. Senti, com'è la tua classe? Descrimela anche come struttura, banchi distanziati, siete riusciti a rispettare il metro, avete buttato giù muri, avete buttato giù, avete banchi nuovi di Arcuri? No, i bianchi nuovi di Arcuri non ce l'abbiamo, le rotelle non ci sono, c'è una grandissima delusione, loro volevano provare la tenuta su strada, abbiamo dei banchi singoli ma li abbiamo sempre avuti, ci sono dei bollini verdi per terra che indicano dove i banchi devono tassativamente stare, speriamo che durante le verifiche i banchi non inizino a muoversi autonomamente, ma li terremo d'occhio. Uh-huh. Siamo arrivati in classe seguendo i percorsi contrassegnati, io mi sono persa solo due volte quindi è andata abbastanza bene, ci hanno misurato la febbre all'ingresso, siamo passati sotto una doccia di amuchina, tutto normale. Quindi vi hanno misurato la febbre all'ingresso, sì. È giusto, perché siete in Piemonte e in Piemonte è successo quello che è successo. Ecco, attenzione, questa è una cosa importante, perché in Piemonte sappiamo che c'è questa ordinanza del governatore, hanno segnato anche i genitori sul diario la temperatura. Nonostante io abbia scritto portami il diario, non me lo sono ancora fatta portare, ecco. Quindi non ho visto che temperatura, che cosa hanno scritto sul diario. Però anche insomma, perché mi sembra che stiano tutti bene. Ma che ci vogliono dire, ragazzi? Sono lì, facciamone parlare un po'. Alessandro, che dici? È un'occasione. No, nel panico. Interrogazione dopo quella della Petri, dei ragazzi. Contenti di essere qua, ragazzi? Siete contenti di essere qua, vi chiedo, sì. Non ho messo io. Ma ci sono giustamente dei no, perché sono anche esseri umani. Meno male. Se a tutti piacesse andare a scuola ci sarebbe un attimo da preoccuparsi. Esattamente. Ricreazione niente, però continueranno. Ricreazione no, ci sono le ricreazioni, abbiamo un sacco di il paese dei campanelli, suonano continuamente, abbiamo gli intervalli, non lo fanno tutti contemporaneamente. Quindi si dovranno poi organizzare per vedersi in altre maniere. Adesso dateci tempo di partire, di capire com'è e quello che combineranno. Didattica a distanza oppure tutto in presenza? No, noi tutto in presenza, anche perché meno male. Tutto professionale, dobbiamo contare molto sui laboratori, sulle attività pratiche. Ecco, c'è questo aspetto. Un ascoltatore manda un messaggio dicendo: è una cosa sulla quale anch'io mi sono concentrato. Cos'è questa follia del non potersi scambiare un foglio? Lasciamo perdere, non entriamo in questa polemica perché sennò la gente critica. Ma come si fa? Anche da voi c'è questa regola: non ci si può scambiare materiale? Non ci si può scambiare il materiale, teoricamente. Poi sappiamo benissimo che fuori da scuola i ragazzi si passano il cellulare e si guardano uno con l'altro i video. Cerchiamo di non far diventare la scuola un posto irreale, però cerchiamo di rispettare tutte le regole possibili, più che altro perché è in gioco tanto. Cioè, la scuola deve rimanere aperta, quindi. Ma al momento, Valentina, tutto possibile. Ti sembra che si stiano comportando bene i tuoi ragazzi? No, si stanno comportando bene. Sempre buonissima con il movimento adesso. No, cioè, sono buonissima quando scrivo, poi in classe non mi vedete che sono una iena. No, ma adesso sono buoni perché sono under pressure, quindi. Perché hanno ancora sonno, secondo me. Hanno sonno, esatto. Infatti qualcuno fa colazione, no, nessuno fa colazione, stranissimo. Cioè non mangiano la merenda sotto il banco di nascosto come fanno sempre? E sotto il banco non si può tenere più nulla, alcuni banchi non ce l'hanno più neanche il sottobanco, perché sotto i banchi non si può lasciare più niente. Adesso aspettiamo di vedere come si organizzano, perché insomma poi è fatta la legge. Vabbè, trova l'inganno. Un altro ascoltatore ci scrive: la cosa più romantica della scuola è sempre stato quello che ti faceva copiare i compiti, tutto finito. Cioè bisogna copiare i compiti. Adesso nelle non si può passare il foglio. Nelle mascherine. Nuove tecniche. Sì. I ragazzi sono le formule matematiche sulle bottigliette di gel di amuchina da tenere sul banco. Ma qui siamo a delle frontiere. Questa è la nuova scuola. Questa è la nuova scuola. I foglietti infilati dentro le mascherine e le formule scritte sulla mucchina. Meraviglioso, Valentina. Ci hai dato uno spaccato. Vabbè, mi sa che noi vi lasciamo adesso a lavorare, perché giustamente qualcuno dice: ma adesso che ha ripreso la scuola, lasciateli in classe questi studenti. E mi sembra giusto. Grazie, Valentina Petri. Ringraziamo molto Valentina autrice Petri. Del blog, ma anche del libro veramente molto gustoso Portami il diario, grazie a te. E allora, grazie a voi. Maria Piera, cosa dobbiamo dire di quello che succederà? Guarda, tu hai parlato dell'Azzolina, noi ce l'abbiamo l'audio dell'Azzolina che ieri ha parlato di queste Sì, siamo abbastanza pronti, ha detto. C'è ancora qualche criticità, questo è evidente, nessuno ovviamente lo vuole nascondere, ma le criticità ci sono sempre state tutti gli anni quando la scuola è iniziata e noi adesso siamo abbastanza pronti per garantire un servizio di qualità. Vabbè, questo era, è vero, Mirta Merlino, che ieri tutti, sera tutti gli anni ci sono delle criticità, sì, sì. È la verità, però insomma quest'anno va un po' peggio. Speriamo po' peggio. Che arrivino presto, tra l'altro, i test salivari, chissà come si divertiranno i ragazzi a sputazzare stavolta davvero per farsi testare, no? Nel caso di un positivo in classe, un sospetto positivo in classe, così da non bloccare tutta la didattica. Questo è una proposta del Ministero della Salute, sta chiedendo il permesso, speriamo che arrivino presto, così non bloccano la scuola. C'è un ascoltatore che ci scrive: il problema maggiore sono gli alunni disabili, fragili, ha purtroppo, ragione. È vero, ha ragione. Magari un po' dimenticati. Di questo tema ci occuperemo, sì, purtroppo sì. Ma sì, nel corso della giornata che Radio 24 sta dedicando a questo tema, il Radio Day, parliamo, abbiamo già parlato ieri, ne parleremo ancora nel pomeriggio anche di questo aspetto perché lo riteniamo molto importante. Grazie facciamo? Anche a un ascoltatore dalla provincia di Modena, dice: mia figlia di 9 anni quando ha realizzato che non avrebbe potuto toccare i compagni e giocarci condividendo giochi, averli vicino di banco, mi ha chiesto con una lacrima: mamma, ma allora tanto vale che facevamo scuola come prima da casa, almeno dormivo di più. Vabbè, no, però è importante anche tornare ma no, in dai, presenza, adesso non esageriamo, non staranno appiccicati, però almeno i compagni li vedono, sì. Insomma, si prove di normalità, dai. Su questo sono d'accordo col governo, bisognava comunque provare, aprire e provare, perché altrimenti non se ne esce. Non c'è dubbio. Grazie Maria Piera Ceci, ci ritroviamo lunedì prossimo, cioè giovedì gnocchi, lunedì Ceci. Ciao. Vabbè, l'ho detta, questa alla maniera, neanche maniera avrebbe potuto farne una così brutta. Tra poco arriva, dopo il traffico, signor Bonetti. Uno, nessuno, 100 Milan. E ogni volta succede questa regola: quando annuncio con enfasi un ospite, in questo caso non è un ospite, è il co-conduttore, e il co-conduttore ha dei problemi a collegarsi. Vai Alpino! Alessandro Milan, come mai se io digito sul computer alessandromilan.it mi viene fuori teamcarruba.it e c'è una vendita di scarpe? Ma non è da ieri, è da qualche giorno che succede, sì. Ma quanti soldi fai questo Team Carruba? Ma, no. Ma non ti vergogni, alessandromilan.it, digitate, viene fuori Team Carruba e si comprano le scarpe. Vabbè, ma che non fare vergogna. Pubblicità, non fare pubblicità, devo, vabbè, dopo lo spiego, vai. Come al solito il problema non sono i ragazzi, ma sono i genitori. Davanti a una scuola elementare, il bambino che entrava a scuola con i due genitori, i tre nonni, uno zio. Il problema è questo, semplicemente, che noi non capiamo la situazione e ce ne fottiamo beatamente delle regole e andiamo a scuola con un bambino che va in prima elementare, con sei persone, a fargli le foto e accompagnarlo al cancello. Ma dove vogliamo andare? Allora, non so, avrà visto qualche affollamento questo ascoltatore. No, banalmente, caro ascoltatore, per tornare indietro al sito alessandromilan.it, è un po' una vicenda come leonardomanera.it, che in realtà è il suo sito. Era il mio blog, che poi non ho più rinnovato, e qualche buon tempone ha comprato il dominio. Sta morto, faceva che cos'è che fanno? Vendono scarpe su alessandromilan.it. Non compro nulla e non vendo nulla, non vendo scarpe, non sono un venditore di scarpe. Signor Bonetti, buongiorno. L'app non funziona. Ma come non funziona l'app? Bisogna avvertire Sandro Fortunato. Ma non è vero. Ma sì, non funziona l'app. Voi mi avete dato il codice e l'app mi dice il codice è sbagliato. Quindi vabbè, mi avete banalmente ti hanno dato un codice che non è quello. Infatti c'è il nuovo codice adesso. Quindi mi avete dato deliberatamente un codice sbagliato. Allora controlla adesso. Facciamo questa cosa di prova diretta. Riesci a controllare WhatsApp mentre siamo al telefono? Sì, l'ho già controllato, ho visto il codice. Quindi non dirlo prima che la gente poi si gioca i numeri alla smorfia. Non dirlo. Non quindi dirlo devo riattaccare adesso e provare a connettermi con l'app. Allora, tra 30 secondi con voi ci sarà il signor Leonardo Manera. Ne sono passati 6, 7, 8. Facciamo, vediamo un po' se fa come USA in Bolt. Quanto ci mette a collegare? 10, 12, sono 13. Sono qui. Che pesante. Dai. Guarda, dai. La settimana comincia già nel peggiore dei modi. Perché con l'app? No, dico perché sei pesante così contro di me. Già mi date il codice sbagliato, poi insinuate negligenza mia. Tutte cose non vere, peraltro, perché io ero già pronto dalle 9:44 lì. Adesso con l'app che non funzionava. Partirà con la battaglia del mi date il codice sbagliato. Prego, prego, Leo, a te il microfono. A che ora chiudiamo oggi? Lo chiedo a Peter, perché altrimenti rimandiamo. Hai scelto quello affidabile, 57:30, hai ben 6 minuti e mezzo per fare. Allora, dico anche a Peter di farmi partire la base, una della mia preferita, l'uomo affidabile, spiritual. Peter. Allora, pochi giorni fa, l'11 settembre, è stato l'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. E credo che ognuno di noi riesca a ricordare dove si trovava quel giorno, in quel momento. Io stavo andando a Torino e sentii la notizia alla radio mentre ero in macchina. E poi, appena giunto a destinazione, entrai in un bar a guardare la TV, che senza interruzione trasmetteva le immagini. E ora, a distanza di quasi 20 anni, ho la sensazione che quel fatto tragico sia diventata storia dell'umanità, certamente, ma anche storia personale di ognuno di noi. Ci sono alcuni eventi, non sempre tragici, che ci fanno ricordare per sempre dove ci trovavamo nel momento in cui sono avvenuti e che poi diventano anche tappe delle nostre vite. Il primo che ricordo è la strage di Piazza della Loggia a Brescia il 28 maggio 1974. Ero a scuola e ricordo che la maestra ci disse che era successo qualcosa di grave, un attentato a pochi chilometri da noi. Io allora abitavo a Salò, che è appunto in provincia di Brescia, con quella sensazione di paura che ancora ho ben presente nei miei pensieri di bambino. Poi la finale dei mondiali di calcio del 1974, Germania-Olanda. Ero un bimbo di 7 anni e ricordo il gol di Gerd Müller che diede la vittoria alla Germania. Mi trovavo in casa di alcuni amici insieme a mio fratello. E ricordo allora di aver cominciato a percepire un mondo che era tante cose ed era anche altrove rispetto alla mia piccola vita di bambino. Ero a Salò, ma sognavo di essere in Germania insieme a Cruyff e Beckenbauer a giocare anch'io la finale dei mondiali o almeno a fare il raccatapalle. E poi il giorno in cui venne rinvenuto il corpo di Aldo Moro, il 9 maggio del 78, avevo 11 anni, ero a casa mia, attendendo l'ora dei cartoni animati quando in TV venne data la notizia. E pur non comprendendo bene il significato di tutta la vicenda, avevo percepito il clima pesante che si respirava allora in Italia. Poi il 2 agosto 1980, il giorno della strage alla stazione di Bologna, ero insieme a mio padre che in silenzio seguiva la TV le notizie che in tempo reale venivano date, mentre io, ormai tredicenne, stavo per varcare la soglia dell'adolescenza. Ero un ragazzino che pensava ad altro, alle prime fidanzatine, al liceo che stavo per cominciare, eppure, ancora adesso, ho l'immagine precisa di me e mio padre in piedi, in silenzio, davanti alla TV. L'11 luglio 1982, il giorno in cui l'Italia vinse il mondiale di calcio in Spagna, a casa con tutta la famiglia e poi a festeggiare fino a notte fonda per le strade di Salò, gridando i nomi dei marcatori, Rossi, Tardelli, Altobelli. E poi il risveglio presto la mattina successiva per poter trovare la Gazzetta in edicola col desiderio di conservarla per sempre. E così sempre, col ricordo di dove mi trovavo ogni volta per la finale dei mondiali, in particolare l'altro mondiale vinto dall'Italia, con la finale 9 luglio 2006. Di pomeriggio ero stato al mare in Romagna con la mia ragazza e poi di sera, sempre con lei e altri amici, avevamo guardato la partita in TV. E poi durante i festeggiamenti la certezza che se anche ci fossimo lasciati, quel ricordo comune sarebbe rimasto per sempre dentro di noi. Ma prima di tutto questo, appunto l'11 settembre 2001, con quelle immagini che hanno segnato le nostre vite, i nostri ricordi. Ed ora è arrivato il coronavirus senza una data precisa, senza un giorno in particolare da ricordare. O forse sì, per me, il 22 febbraio, il giorno del mio ultimo spettacolo prima del lockdown, con 60 persone che per il timore del contagio avevano disdetto all'ultimo momento, immaginando forse quello che da lì a poco sarebbe successo. sono tutte queste le cicatrici anche che ci portiamo addosso, sono le nostre vite che si fondono alle vite degli altri, di tutti noi, e che ci danno una coscienza comune, dove i ricordi comuni si fondono con la vita privata, mescolando paura e speranza, dolore, ma anche voglia di ricominciare, come oggi, nel giorno dell'apertura delle scuole. Sperando che ci sia ancora qualche gioia da condividere e per cui abbracciarsi senza mascherina, magari in un paese con meno rabbia, magari, chissà, vincendo un altro mondiale. Che bello, vedi che già hai risollevato questo lunedì con queste bellissime righe, caro Leonardo. Sei partito, dice, male, ma invece vedi che poi che belle poesie. Ascoltavo la signora che inizia la trasmissione, ha detto che ha paura. Ecco, io penso che bisogna avere attenzione, ma non paura, perché insomma questa è una malattia che nella gran parte dei casi non produce nemmeno malattie, molti asintomatici, ed è una malattia da quale anche si guarisce, come ha dimostrato il doppio tampone negativo di Briatore. Hai visto? Briatore sì, guarito. Briatore. È a Monte doppio Carlo. Tampone negativo. Sì. È guarito. È guarito. Sei contento, come tutti siamo contenti. Io sono contento, sì, no. Sono contento sinceramente alla faccia di tutti quelli che hanno goduto quando hanno detto, ecco, hai visto, Briatore è positivo. No, io sono contento che sia guarito e lo dico sinceramente. Bene, bravo, ma insomma si spera, non si augura mai il male, quindi... No, quindi ma in tanti sui social avevano quasi gioito, no? Quando avevano visto la positività di Briatore, e invece adesso sta bene e io sono contento per lui. Tra l'altro oggi è l'anniversario di nascita della bellissima Amy Winehouse, ci scrive un ascoltatore, e nessuno se lo ricorda, e tu non l'hai messa nel tuo pezzo come data da ricordare. No, però effettivamente, bravo Leo. Per il resto, che settimana si produce per quel che riguarda te e noi? Non so. Pensi ogni tanto di venire a trovarci in settimana? Domani sarò presente lì fisicamente in radio. Stamattina sono andato da mio figlio e gli ho fatto un video, come è mio costume, il primo giorno di scuola delle elementari, gli ho fatto un video. Stamattina sono andato da lui, gli ho fatto un video. Aveva la mascherina, tutto pronto, la mascherina anche sullo zaino, quindi tutto a posto. La mascherona sullo zaino, va bene. Andiamo al giornale radio. Nella seconda ora avremo con noi, tra gli altri, Giacomo Poretti. E se io dico Aldo, Giovanni e Giacomo, sapete, insomma, Giacomo Poretti, attore, perché parleremo sempre di questo coronavirus che incredibilmente, quando comporta il coinvolgimento di VIPS, come dici tu, Briatore, viene tutto spiattellato sui giornali. Allora ci vorremmo interrogare su questo tema tra privacy e diritto di sapere tra poco. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. 1, nessuno, 100 Milan. Tornando all'intervento dell'ascoltatore di prima, il problema non è la babysitter da chiamare, il problema è che se torna mio figlio con il Covid a casa, dobbiamo stare tutti in quarantena. E se io ho partita IVA, ho un'attività commerciale o qualsiasi altra cosa del genere, per 15 giorni almeno devo stare bloccato a casa. Mi sbaglio? Ovvio, cioè, se, vabbè, ma che, questa è un po' una banalità, se suo figlio, è cosa che non accadrà, o se un figlio si ammala e risulta positivo, tutti stanno a casa. Non ho capito neanche il senso di questa protesta. Sì, certo. Voglio dire, la protesta è che deve stare a casa 15 giorni e non può lavorare, questo è il problema. Sì, ma voglio dire, come cosa dobbiamo fare? Invece no, vada in giro a possibilmente portare in giro il virus, cioè, questa è l'alternativa. Ma il problema secondo me è anche un altro. Mettiamo che ci sia un compagno di mio figlio a scuola che ha il Covid, a quel punto magari anche mio figlio deve rimanere a casa, sì, certo. Non sapendo ancora se lui avrà il Covid oppure no. A questo punto cosa viene fatto? Viene fatto automaticamente un tampone anche a tutti gli altri bambini? No, questo lo stabilisce, diciamo, l'ASL, cioè se succede che uno in classe è positivo, a quel punto interviene l'ASL e stabilisce certo. se qualcuno della classe debba ricevere il tampone. Ecco. E nel frattempo, mentre l'ASL stabilisce, il genitore cosa fa? Deve stare a casa anche lui o può andare liberamente in giro? Diciamo che è quello di cui ci eravamo occupati. Bisognerebbe avere delle risposte in tempo reale. Quando io avevo chiesto al preside, scusi, se risulta che uno è positivo alle 9:30, che succede alle 9:30 e un secondo alla stessa classe? Cioè se arriva la telefonata? E la questione avvisiamo l'ASL. Ho capito, ma nel frattempo il virus è lì. Una scelta va fatta immediatamente. Però volevo chiederti un'altra cosa, Leonardo. Ma tu sabato sei a Vigevano per caso? Sabato prossimo? Sì, sì. Come diceva Bergonzoni, quel posto dove una volta c'erano delle leggi che adesso non ci sono più. Sì. Vigevano. Bene. Non ci posso credere. Comunque, un ascoltatore. Bergonzoni, era una famosa battuta di Bergonzoni. Lui gioca sempre sulle parole. Ti ricordo che c'è un ascoltatore che dice che ti aspetta sabato a Vigevano con vari ortaggi da lanciare. Vari ortaggi, puoi scegliere tu. Io propenderei per zucchine che vanno per la maggiore. Allora, a casa maniera, sì. Non dovrebbe, perché questa di sabato a Vigevano è una serata semi benefica. E quindi vabbè, cosa c'entra? E viene lì, fa beneficenza e poi dopo si sente legittima. Potremmo iniziare questa nuova. Lanciate mezze brioche urlandogli allora, mangino brioche. Ti racconto rapidamente questa storia. Anni fa andavo in un locale di Roma, si chiamava Alfellini, in zona Piramide a Roma, dove hanno lavorato tantissimi comici. E il giovedì sera c'era una serata che si chiamava Lancio Party. In cosa consisteva? Tutti gli spettatori avevano accanto al tavolo un secchio pieno d'acqua e un sacchetto di segatura. Se il comico non piaceva, gli spettatori immergevano il sacchetto di segatura nel secchio d'acqua per appesantirlo e lo tiravano addosso al comico, che così veniva fatto oggetto di questi lanci anche potenzialmente pericolosi, perché un sacchetto pieno di segatura bevuto d'acqua può far male. E anch'io partecipai. Un mio collega venne colpito in faccia proprio da questi. Strano che questa disavventura non sia capitata a te, perché di solito questo mio collega si arrabbiò, si tolse la scarpa e la tirò addosso a come Khrushchev, come Khrushchev. Il sacchetto di segatura, e da lì cominciò una rizza che portò il povero comico. Però, in realtà Khrushchev la batté solo sul tavolo. Ricordo dopo questo racconto che ieri Leonardo Manera ha scritto un post su Facebook dicendo che bisognerebbe riaprire i teatri, perché si è mai vista una rissa in un teatro? Ecco, appunto, lo è appena raccontato, una rissa. No, questo però è un argomento vero e serio. Io non ho visto risse fuori dalle discoteche, ho anche raccontato che un mio collega una volta venne ferito, gli venne rotto uno zigomo fuori da una discoteca, ma fuori dai teatri io personalmente non ne ho mai visto. Magari i poveri comici vengono picchiati dentro, ma fuori io non ho mai visto succedere niente di grave e di male, quindi forse il teatro è un settore che, e lo spettacolo in generale, che meriterebbe più attenzione. Ecco. Assolutamente sì. Allora c'è chi ci scrive dicendo ma come il dipendente alla malattia e il commerciante alla partita IVA no? Ma dai, grazie caro ascoltatore, non lo sapevo, lo scopriamo adesso con il Covid, che se uno ha la partita IVA o se uno è un commerciante e ha la febbre, ma questo anche 10 anni fa, e deve chiudere bottega per 3 giorni non incassa. Ma guarda, ci voleva questo ascoltatore, perché io non ci sarei mai arrivato per ricordarmelo. E lo so, è un problema, però dico io che cavolo ci possiamo fare, cioè nel senso se c'è il virus. Cosa ci possiamo Poi, fare? C'è un ulteriore problema che mi permetto di segnalare e che riguarda i genitori separati come me. Perché, per esempio, se un figlio viene mandato a casa per Covid o perché è un suo compagno al Covid, il giorno in cui magari è con la madre, ma il giorno prima era con me, cosa mm-hmm. succede al genitore che era con lui il giorno prima, ma non il giorno in cui viene mandato a casa? Deve stare a casa anche quello? Tu di solito, scusami, fai Leo risolve facile, adesso sei venuto qui a porre dei problemi. Di solito li risolvi, ora è proprio lunedì. Dai, fammi sentire Luigi da Roma. Vai. Luigi da Pronto? Roma, buongiorno. Pronto? Sì, Luigi. Mi senti, Milan? Mi senti? Bene, bene. Sì, allora io mi chiedo, ma quelli che fanno tutte queste regole per la scuola, per i bambini, sì. ma vivono chiusi nei palazzi o vanno anche in giro? No, sono anche genitori, allora, i ministri, sono genitori. Allora, Conte. Allora, io durante il periodo estivo, sì. diciamo, ho visto bambini che giocavano insieme, che sì. andavano al mare, sì. che si incontravano, bambini, io poi ho due nipotine, una di 10 anni e una di 8 anni, che si incontravano con le loro amichette, ma non tenendosi a distanza, ma facendo quelle cose che fanno i bambini. Luigi, sono 20 giorni che io sottolineo questa cosa, cioè che c'è una contraddizione tra la vita esterna e certo, sai cosa dicono questi... tutti, hanno ragione, dovrebbero non è sbagliato la distanza a scuola, dovrebbe essere il buon senso vietare ai bambini di fare scusami Mila, sì. io ho visto sulla spiaggia bambini, decine e decine di bambini che facevano il bagno insieme, le mie nipotine vanno in a un teoria campo, è a un sbagliato, campo estivo. In teoria è sbagliato. No, è sbagliato, però a un certo momento la malattia esiste. Che cosa adesso questi sono stati tutto il periodo estivo a contatto con i loro amichetti, noi li mettiamo in scuola e li mettiamo in gabbia, a me pare proprio diciamo che parte che poi tra il mare che è un ambiente aperto e la scuola che è un ambiente chiuso c'è differenza, insomma, ma comunque Luigi è quello che dico io, mi bastonano, mi criticano, io poi tutte le bastonate le rivolgo a Manera, cioè ogni bastonata che mi arriva io ne do 3 a lui, così perché sono pieno di lividi, perché è lui che mi istiga, è lui che mi istiga, il vero negazionista. Stamattina poi, tornando a casa dopo aver accompagnato mio figlio, sono passato davanti a 2 scuole e ho visto diversi studenti che davanti alla scuola, all'ingresso, avevano la mascherina, ma alcuni che, diversi, che stavano andando a scuola in gruppo e che la mascherina non ce l'avevano, certo. ce l'avevano sul mento. Quindi è inevitabile, dal mio punto di vista, è inevitabile che sia così. Che sarà così. Vabbè. Dai, dopo il traffico ci raggiungerà Giacomo Poretti, poi alle 10.30 avremo invece ospite Vladimir Luxuria per parlare della vicenda incredibile che è venuta a Caivano, sulla quale, sui cui contorni bisogna ovviamente ancora indagare, ma insomma l'accusa è per un ragazzo di una famiglia di avere inseguito la sorella, che, perché questa è l'accusa, la sorella aveva una relazione con un transessuale, quindi veniva considerata, come dire, come minimo inopportuna, se non peggio, questa relazione. Dopo il traffico però andiamo da Giacomo Poretti. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Mira, ho visto che ti sei messo nel business delle calzature. Mi mandi un paio di ciabatte 43 blu con lo sconticino. Basta sta storia, basta. Eh sì, Leonardo, caro Leonardo Manera, non abbiamo mai parlato di questo nel mio sito alessandromilan.it, che qualcuno ha comprato come dominio e ora vendono scarpe. Pensa se fosse successo a te, come ti avrei distrutto. Quindi, tu che sfotti sempre me, perché ho il sito in costruzione da anni, praticamente hai un sito Alessandro Milan dove punto si vendono it. calzature. Sì, ma perché tu non ti informi? Se tu ti informassi sulle cose sbagliate che faccio io, mi potresti massacrare, ma tu invece non ti informi. Non... Adesso puoi dire la verità, che tu dici che l'ha comprato qualcun altro, ma è un tuo modo per arrotondare. Mi dà anche fastidio perché non so chi l'abbia comprato, gli stiamo facendo pubblicità e quindi non. Allora, nei giorni ma scorsi. Ma ti danno come percentuale? Smettila, niente. Cos'hai, niente, 30? Niente. Adesso vado niente. A vedere. Alessandro Milan, che socio occulto. Allora, nei giorni scorsi, l'ultimo VIP che è risultato positivo È stato il presidente del Napoli De Laurentiis. Tra l'altro c'è una scena epocale quando hanno detto in diretta al Cardinal Sepe, cardinale di Napoli, ha scoperto, era una conferenza, un incontro, che era positivo De Laurentiis. Senti la reazione del Cardinal Sepe, Leonardo. Oh maronna mia, io non sapevo, me l'hanno detto, dice che è risultato positivo e mo ma già fa... Come si chiama là? Tambù. Io già ne ho già fatte 3-4, un più, uno meno. Questo è il Cardinal Sepe. Però io sono rimasto molto colpito. Anche quando è successo il Laurentiis, ho scoperto in un articolo di Repubblica che si diceva che a una cena si è presentato alla cena della Lega, cena durante la quale si è alzato due volte e è andato due volte al bagno. Ma io dico, ma la privacy quando si tratta di personaggi pubblici viene così buttata appunto nel bagno? Lo vogliamo chiedere, lo ringraziamo tantissimo a Giacomo Poretti. Grande Giacomo, grazie di essere qui in diretta con noi. Ciao, buongiorno, buongiorno Alessandro, posso chiamarti per nome? Sì, sì, sì, sì, per carità, perché Milan non si dice. Ma non riesco a darlo il tuo cognome. Interisti, mamma. Il Covid, non lo so, però quella parola lì non riesce più, non so. Io tra l'altro voglio ricordare il suo ultimo spettacolo, Chiedimi se sono di tour, perché Poretti ha fatto un monologo che attinge insomma ai suoi 11 anni da infermiere. Poi Giacomo, sì. hai rivelato anche in un'intervista insomma, che sì. Insomma, ci sei incappato in questo Covid. Ma quando si tratta di persone famose, come mai bisogna spiattellare tutto? C'è questa curiosità morbosa, viene da dire, ah, ecco, anche a loro, quelli fortunati, gli è capitato. Penso che sia un po' così, no? Poi... un po' di maleducazione e viene fuori quello che è successo, no? Penso, io l'ho preso senza partecipare alle feste e alle cene della Lega, pensa un po', no? E senza andare in discoteca, cioè pensa che sfiga, no? Cioè, mi fossi divertito, avessi scroccato qualche pranzo, invece no. Così è arrivato senza bussare neanche alla porta. Bastardo. Quindi dici che c'è sempre un po' di piacere quando qualcuno famoso ha qualche problema? Sì, penso proprio di sì, no? Che sia l'invidia è un sentimento abbastanza diffuso e quindi è così, cioè ovviamente non lo sto giustificando, constato che è così, insomma. Poi certo, spesso le persone famose fanno di tutto per attirare gli strali delle persone, guarda questi ultimi comportamenti col Covid, però insomma. Sì. Però è la prima situazione in cui effettivamente la privacy viene messa in secondo piano, no? Siamo nel regno della privacy, tutto è privacy, in questo caso no, positivo Berlusconi, positiva la figlia, il figlio, la genera, la fidanzata. Sì, sì. No, ma tu Alessandro, tu pensi che siamo veramente nell'epoca della privacy? Io penso che è proprio l'esatto contrario, è talmente sbandierata, in realtà è un gioco di magia per violare continuamente la privacy, è così, è un mondo così, un mondo un po' strano, però sì. È così. Ma uomo di spettacolo Giacomo, come sì. Leonardo ci racconta sempre. Ciao Leonardo. Ciao Giacomo. Le mega difficoltà, insomma, di un mondo che è stato il primo a chiudere, sarà forse sì, l'ultimo sì. A riaprire a tamburo battente, un disastro. Posso raccontarti una cosa, vabbè, noi io con i miei soci siamo stati relativamente fortunati perché il film è uscito il 30 gennaio, il 22 febbraio si è bloccato tutto, però insomma la strada l'ha fatta. Però il vero intuito per gli affari, io ce l'ho con Gabriella Levi e Luca Doninelli, che l'anno scorso, a ottobre, mi hanno detto, ragazzi, ma lo sapete che sento nell'aria che il 2020 è l'anno giusto per prendere un teatro, no? E l'abbiamo preso. l'avete fatto. Scusa, ridiamo Giacomo. Ma posso darti uno scoop, ragazzi? Sì. Sapete che il Financial Times ci dedicherà una copertina? Uomini intuito 2020, no? Cosa vuol dire? Ma che... cioè, è meglio ridere. Che teatro è? Qual è? È il Teatro Oscar, vicino... Ah certo, lo conosco bene. Io al Teatro Oscar ho fatto l'ultimo spettacolo mio prima del lockdown, il 22 febbraio. Lo so. Per cui è un teatro meraviglioso, 350 posti, e adesso a causa di questo bastardo di virus ne possiamo mettere solo un centinaio quando si riprenderà, però è talmente bello il teatro, no? Che si va avanti e prima o poi finirà sta cosa, insomma, dai. Prima o poi finirà. Si va avanti ma in rosso però, perché solo con 100 posti magari non si riescono a coprire le spese, o no? Dai, dai, vieni che ti offriamo 200 euro a serata. Io vengo volentieri, ma dico, sarà un problema per tutte le gestioni dei teatri, no? Ascolta Alessandro, possiamo usare lo sponsor, quello delle scarpe tuo? Sì, che magari... va bene che non è, mamma mia, questa cosa, devo subito fare un comunicato stampa per dire che mi dissocio da me stesso. Però ecco, l'esperienza da infermiere è servita intanto per scrivere uno spettacolo, un monologo, e poi forse è servita in generale, no, in questo momento di vita. Ma in questo momento non lo so, diciamo che lo spettacolo appunto ha debuttato l'anno scorso a novembre al Teatro Oscar, stava andando in giro con la sua bella tournée e si è fermato. Una cosa significativa mi è capitata adesso, la ripresa è stato a fine agosto, ho fatto due serate al Lazzaretto di Bergamo, che è uno spazio all'aperto, dedicato agli operatori sanitari dell'ospedale, sì, Giovanni XXIII, che come ben sapete, insomma, in questi mesi è assurda le cronache per fatti veramente drammatici. Non è che abbia raccontato cose particolari sul Covid, no? Però l'esperienza dell'infermiere, che è un mestiere straordinario, è epico quasi, diciamo che è stato molto apprezzato e mi ha dato modo di raccontare che cos'è la malattia per le persone, perché insomma ricordiamocelo che il datore di lavoro di chi lavora in ospedale è la malattia, no? Non sono né i politici né i direttori sanitari, e quindi è tragicomico parlare, perché ovviamente lo spettacolo è anche comico, racconto per esempio quando ho fatto la mia prima intramuscolare, insomma, e poi tante altre cose che, come immaginate, non sono propriamente piacevoli quando si è in ospedale. Però mi sembra che lo spirito sia alto, anche la voglia di ripartire dai teatri, sì, dallo spettacolo, dalla cultura. Sì. Dalla cultura. Ma sicuramente sì, perché poi sai, voi lo sapete bene, ve ne siete occupati in questi mesi, no? Tutte questi slogan, ne usciremo migliori, eccetera, eccetera. Insomma, c'è materiale di riflessione sia per i comici, per i drammaturghi e per persone che aiutano a far riflettere come voi, insomma, non è propriamente vero che è successa questa cosa e ne usciremo migliori, o no Alessandro? No, io credo di no, per quel che riguarda io Leonardo Manera, io sto uscendo peggio caratterialmente, non devo dirlo. Tra l'altro ieri ho letto questo titolo, giuro, su Repubblica, intervista al Ministro della Salute Speranza: teniamo duro 6 mesi e saremo tutti salvi. Ma ho detto, accidenti, vabbè, ma allora se si tratta di 6 mesi e saremo tutti salvi, insomma, va bene. Dobbiamo solo tenere un po' duro. Grazie a Giacomo Poretti, un grande abbraccio, un grande abbraccio. Potresti, nello spettacolo, potresti sforzarti per dire il mio cognome una volta. No, sì. Cioè io vorrei anche fare, ma però sono gli effetti collaterali delle cose. Tu lo sai che spesso colpisce il gusto e l'olfatto, ha colpito quella parte del cervello che è Broca, che è quella del linguaggio, certe parole non mi escono, come quella squadra di Torino, ecco, certe parole non mi vengono, non so cos'è. È così. Vabbè. Giacomo, come interpreti il silenzio di Conte, il contro-allenatore dell'Inter di questi ultimi giorni? Secondo te c'è Maretta, l'Inter è in crisi già? Speriamo. Siete due bastardi voi due, io lo so. No, è l'anno dell'Inter, si sa che è l'anno dell'Inter, sì. Dai. È cambiata la comunicazione, adesso basta cazzeggiare, basta pettegolezzo sull'Inter, si va seri e basta. Seri. Basta. Non si parla più. Basta. È l'anno dell'Inter. Grazie. Grazie Giacomo, un grande abbraccio ovviamente. Giacomo Poretti, eccolo qua, poi il suo spettacolo Chiedimi se sono di turno, il suo ultimo monologo. Caro Leonardo. Tra l'altro, Riguardo agli infermieri, sono quelli che hanno il vero contatto col paziente, perché il medico passa la mattina alle 9, dà la terapia, parla un attimo, dice delle cose che magari salutiamo tutti i medici che in questo momento sono a contatto con i pazienti. Tu ti immagini la scena proprio del primario Alberto Sordi che passa con il codazzo, date questo. Io sono stato in ospedale purtroppo alcune volte nella vita, una volta per 12 giorni, una volta per 10 giorni, e di regola è così, passa il medico la mattina verso le 9, dà un'occhiata, dà la terapia, però certo. Poi uno, quando vuole interpretare quello che ha detto il medico, di regola chiede all'infermiera. Ah, ma è chiaro che l'infermiera e gli infermieri che sono a stretto contatto, che entrano mille volte nelle camere per ogni esigenza, questa sì. Ma si cercano sempre anche rassicurazioni da parte dell'infermiera che all'inizio te le dà, dopo un po' si stufa, faccia così e basta. All'inizio ci spieghi di spiegarti, ma sì, vedrà che andrà tutto bene. Questa, dopo, quando la chiami di notte, faccia così, basta. Sulle note del medico della mutua, dottor Tersilli, è arrivato anche il dottor Meazza. Niente, vuoi dire qualcosa di sgradevole a Meazza, caro Leonardo? Ma io non ho mai detto niente di sgradevole, che tra l'altro è il mio preferito, posso dirlo, in tutta la radio è la persona che preferisco, Mauro Meazza. Silente, ragazzi. Pensa sì, allora cosa pensi, che ne so, di Maria Piera Ceci a questo punto. No, io dico Mauro Meazza è quello che preferisco, anche perché mi ha fatto una dilazione sui soldi che mi ha prestato. Ah, e quindi... È una rarità, È una rarità, di solito manda degli spezzapollici, invece a te. Vabbè, dai. Mi ha dato una settimana di tempo e quindi lo ringrazio. Mauro, sei stato molto gentile nei miei pensieri. Allora, adesso andiamo a sentire la borsa, poi rientreremo, sarà con noi Vladimir Luxuria, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. La persona adesso ha detto che rimane a casa bloccato 15 giorni. Mica tutti hanno la malattia pagata come ce l'hai tu, che sei dipendente del Sole 24 Ore. Ancora. Ci sono tanti che hanno la partita IVA. Ancora. E quindi, se non escono a lavorare, non guadagnano. E non hanno il più piccolo aiuto da parte dello Stato. Chiaro? Perché, adesso scusami un attimo, Peter, prima di continuare, perché Leonardo Manera se la prendono con me? Cioè, cosa posso fare io? Volete, vi do dei soldi? Cioè, cosa posso fare io? Se non voi protestate, giustamente, come dire, cosa devo dire? Le solite cose, luoghi comuni, non ho detto io di fare la partita IVA. È anche una scelta quella di avere la partita IVA, no? È una scelta di vita, cioè di non essere dipendente come Leonardo Manera. Leonardo, tu che sei mai stato dipendente, rispondi tu, di qualcosa tu, perché qua... Non dicevo. Dico che è vero che è un problema, nel senso ma certo che è un problema, anche, ma perché lo riversano su di me come se fossi la causa di questo problema? Beh, ma tu tendi sempre a minimizzare i problemi degli altri. Ma che minimizzare? Ma lo so benissimo. Sei conosciuto come il minimizzatore. Ah, ecco. Vabbè. Se minimizzi, ma è non ovvio minimizzo. Che poi se minimizzi, ma non minimizzo. Sì, hai minimizzato. Ma se minimizzassi, normale che arrivi. Ma non minimizzo. Hai minimizzato. Non minimizzo. Se minimizzi. No, se minimizzi è normale. No, sì, io non minimizzo. Se minimizzassi si capirebbe, ma non minimizzo. Hai minimizzato. E se minimizzi, poi è normale che vengano WhatsApp di questo tenore. Io vorrei minimizzare, ma non minimizzo mai. Minimizzi sempre invece. Dice, ma sono problemi altrui. E fai anche una sogghigni. Sogghigni minimizzando. Vai. Alessandro Milan, te non capisci perché se stai a casa vieni pagato. Ecco. Ce n'è un altro. Manera fa le scarpe e Milan le vende. Vabbè. Dai, adesso dobbiamo parlare di una cosa molto seria. Sono le 10:38 minuti. Saluto Vladimir Luxuria. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Vladimir. Eccolo qua. Come va? Tutto bene? Bene, grazie. Da un po' che non ci sentiamo. È vero. Bene. È vero. E tu vai anche su altre radio. Che dobbiamo fare? subito così la stoccata gentile, la stoccata, ma fai bene. Ma se ti riferisci alla radio in cui lavoravo, non ci lavoro più. Vabbè, infatti, vedi che ci risentiamo. No, allora, devo parlare di questa cosa, che allora, i contorni sono ancora da chiarire, usiamo il condizionale, perché insomma la storia dei processi mediatici sono sbagliati. Però succede venerdì sera, c'è un incidente in motorino, un incidente procurato, adesso questo si vedrà a Caivano, muore Maria Paola, il problema è che a speronare, volontariamente o no, si vedrà questa Maria Paola che era con il suo fidanzato Ciro, Cira alla nascita e poi diventato Ciro, era il fratello sull'altro motorino. L'accusa è di avere speronato, inseguito e speronato la moto della ragazza con Ciro perché osteggiava questa relazione con un transessuale. Anche al grido giura Ciro, intervistato da Repubblica, ti devo uccidere. Questi sono i contorni, Vladimir Luxuria. Poi le considerazioni quali sono? Che intanto mi sembra di ritornare a un'Italia color seppia, quella del delitto d'onore, quell'Italia in cui un fratello, per il fatto di essere il fratello maschio, pensava di arrogarsi il diritto di vita e di morte sulla sorella in base alle scelte fatte. Una volta bastava che una sorella si innamorasse o volesse stare insieme all'uomo considerato sbagliato e si pensava che bisognava punire la sorella. In questo caso si tratta del fatto che non si accettava una relazione che durava da anni tra Maria Paola e Ciro, per il fatto che tutti sapevano in paese, perché non è che bisogna nascondere il proprio affetto, dovremmo vivere in una Italia in cui nessuno si deve vergognare di amare un'altra persona, quindi che in paese si sapeva che Maria Paola frequentava Ciro e che al fratello questa cosa non andava più. Tu dici che bisogna essere cauti, vorrei anch'io che non accadessero questi episodi di transfobia, però ci sono alcune parole che pesano tanto, perché il fratello ha detto che la sorella era stata infettata da Ciro, quindi io... Che fosse una relazione estremamente osteggiata, lo stesso Ciro dice, la famiglia diceva meglio morta che stare con me. Quindi esatto. il contesto, il retropensiero era questo, pare appurato. E vorrei invitare tutti quegli abitanti di Caivano, ma dei paesi in generale, a farsi un piccolo esame di coscienza, perché è vero che c'è chi sperona, chi provoca la morte in maniera diretta, ma ci sono tutti quelli che attraverso i commenti morbosi, le risatine, le allusioni contribuiscono a creare poi dopo questo clima, non per giustificare ovviamente l'azione disumana, perché un fratello che uccide una sorella, sangue del suo sangue, è la cosa più disumana che possa accadere, ma pensare che quello che si fa e quello che si dice ha comunque un peso, non sono cose che si dissolvono nell'aria. Esiste una transfobia omicida, ma esiste anche una transfobia che aiuta ad alimentare un clima di odio, purtroppo, nei confronti delle persone trans. Questo lo voglio dire a tutti quelli che continuano a negare, a minimizzare, a dire ma no, queste cose non succedono. Purtroppo queste cose succedono e si muore di transfobia. Io questa mattina Simone Spezza ha chiamato anche il deputato Zan, che è uno dei più attivi a dire ci vuole a questo punto l'approvazione della legge contro l'omofobia. Non lo so se bisogna necessariamente collegare i due fatti. Voglio dire, una legge non impedisce, certo, non agisce a livello culturale, non impedisce che uno possa portare avanti degli intenti semmai criminali, se vuole, semmai serve a punire dopo, a stabilire una pena, però è questa la strada, una legge secondo te, Vladimir? Beh, in principio per tutti i reati, è chiaro che esistono delle pene per chi commette dei furti, ma questo non toglie il fatto che purtroppo ancora i furti si commettono, esiste il reato del femminicidio, ma purtroppo si continuano a uccidere le donne. Quindi è chiaro che esiste un aspetto punitivo, un aggravante che secondo me va inserita, perché ti faccio un esempio. Se il fratello non approvava la relazione di Maria Paola con una persona perché magari nera, in questo caso ci sarebbe stata l'aggravante prevista dalla legge Mancino. Sì. se il fratello non approvava la relazione di Maria Paola con un altro uomo perché musulmano, in questo caso ci sarebbe stata l'applicazione dell'aggravante della legge Mancino per discriminazione per fede religiosa. Io non capisco perché, per quale motivo, non per lo stesso principio non ci debba essere anche per orientamento sessuale e identità di genere. Questo è quello che penso. E poi c'è un aspetto che ti posso dire che a me interessa quasi di più dell'aspetto punitivo, che è l'aspetto educativo che è contemplato anche in questa legge, cioè l'educazione alla convivenza, al rispetto, che bisogna cominciare a fare nelle scuole, nei mass media, perché penso che questo possa contribuire davvero a salvare delle vite. Si possono salvare delle vite. Giustamente tu hai fatto un appello anche alla comunità di Caivano, per carità, non che adesso ci debbano scrivere ma io sono di Caivano e non ho nulla in comune, si parla in generale, cioè si parla ovviamente di qualcuno, di quel pissi no, di che c'è inutile quel guardare, quel commentare che poi crea sicuramente quell'humus che poi il porta... problema è il giudizio morale che viene sempre dato nei confronti di queste persone da parte di chi si ritiene moralmente superiore, da parte di chi si ritiene normale. E questo è l'atteggiamento da cambiare, che sarà difficile, immagino, cambiare. Questo sì, è terribile, insomma, poi vedremo. Ovviamente la famiglia dice si è trattato di un incidente, chiaro, adesso non stiamo noi a stabilire la dinamica, ci sono i magistrati su questo, però le parole di Vladimir Luxura mi sembrano parole a richiamare, insomma, un problema che c'è. Sì. Io vorrei ripetere, scusa, le parole della mamma di Ciro, sì, che ha detto che i figli vanno amati così come sono, una mamma addolorata per la perdita ovviamente della persona che amava suo figlio e perché in questo momento il figlio è in ospedale in gravi condizioni. Perciò questo sia un bel messaggio che bisogna dare ai genitori e a tutti coloro anche che se Vladimir, oggi... anche se va la stessa, ma lo stesso Ciro dice: mia mamma ci ha messo 5 anni ad accettare quando io a 15 anni ho capito, insomma, che non mi sentivo più Cira. Quindi sì. non deve essere neanche un percorso facile, no. Non deve essere neanche un momento. Lo dice a me, infatti, è qualcosa. Infatti, cioè, è chiaro che quando lo dici ai tuoi genitori, non è che aprono il frigorifero, stappano la bottiglia di spumante, cioè festeggiamo. È un percorso lungo, a volte ci sono dei silenzi, a volte si raffreddano i rapporti, però penso che attraverso un lavoro di reciproco avvicinamento si può alla fine riallacciare i rapporti con la famiglia. L'ho fatto io, l'ha fatto Ciro, e penso che sia importante, perché purtroppo in una società in questo momento veramente permeata da odio, da una violenza assurda, cioè leggiamo delle cose terribili, sapere di poter avere almeno un porto, un ascolto in famiglia, io penso che sia importante per tutti. Sicuramente, grazie Vladimir, ci sentiamo grazie presto. A voi. Vladimir Luxuria, ciao. Grazie per essere stato qui. Allora, dobbiamo andare al traffico? Sì, traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, alle 10:48 minuti abbiamo parlato di scuola, abbiamo avuto ospite anche Paolo Giordano, Giacomo Poretti, abbiamo avuto Vladimir Luxuria, tante tematiche. Allora, buongiorno a tutti. Ma non puoi mandare la sigla di chiusura, Peter? Anticipiamo la chiusura. È il mio momento, oggi, lei non mi interrompa, altrimenti abbandono lo studio. Ecco, dai, chiudiamo 7 minuti prima. Cominciamo nel modo corretto, per cortesia, non voglio essere... No. Non voglio assolutamente essere discriminato da quelli come lei, gli amici dei poteri forti. Alessandro Mina, amico dei poteri forti e dei produttori di scarpe. No, anche lei. Allora, andiamo l'inno, eccolo, benissimo. Partito super sovranista italiano, PSSI, si poteva anche far andare fino in fondo. Vengo boicottato anche dal vostro amico in regia. Amico. Questa la dice lunga. Abbiamo un inno, non lo vogliamo mandare. Questa la dice lunga. Tutto. Una parola è poca, 10 sono troppe, ma io non voglio dire niente. Però dico una cosa: quando si fa un inno, l'inno del partito super sovranista italiano, PSSI, va mandato per intero, partito super sovranista italiano, ISSIP, sì, allora non mi interrompa, o abbandono lo studio, vabbè, non mi faccia diventare sgradevole, ha capito? No. Sono vabbè, stato invitato dai vertici della radio, sì, e quindi ho tutto il diritto di parlare. Il direttore, allora, ha invitato i vertici, non mi faccia specificare, non c'è bisogno, sono stato invitato dai vertici, non solo della radio in generale. Allora, sono uscito dalla Lega, sì, di Matteo Salvini, Salvini è troppo moderato, lui vuole chiudere i porti per evitare l'arrivo di troppi extracomunitari, io invece dico che i porti li dobbiamo abolire completamente, perché aboliamo, sì, i porti, chiudiamo, perché finché ci sono i porti qualche extracomunitario con i barchini arriverà sempre, invece se noi aboliamo i porti vedrai che gli extracomunitari, però, non sanno più dove sbarcare e non arrivano. Geniale, è giusto o non è giusto questo ragionamento? Proprio, è giusto o non è giusto? Geniale. Lo dico anche lei, sì, lei giusto, amico giusto degli extracomunitari e di tutti quanti. Bisogna fare in modo che l'Italia non abbia più neanche un porto, neanche, e allora porto, vedrai che andremo bene. Ma queste cose non si possono dire nelle trasmissioni come la sua, anche se la pazienza ormai sta per finire, usquettando in Caterina a buttare la nostra pazienza, perché va bene tutto, Caterina, ma la pazienza a un certo punto si butta via, si butta via, si butta via, come dice il detto latino, lo ripeto, usquettando in Caterina a buttare pazienza nostra. Ma io sono un super sovranista. Perché sono un super sovranista? Perché? Perché dobbiamo rivendicare il primato del nostro paese. Primato, e primato, non come dice il nostro inno nazionale, dice che arriviamo sesti, Fratelli d'Italia, l'Italia è sesta, dell'Eno Licipio, no, eccetera. L'Italia, eccetera, sedesta. Allora, no, no, l'Italia è sesta, dice l'inno. Dobbiamo fare in modo che l'Italia non sia sesta nell'inno. Nell'inno, almeno nell'inno, diciamo Fratelli d'Italia, l'Italia è prima, è prima. No, non l'Italia è sesta, mia, è dell'Elmo Licipio, eccetera. Sa che lei è un ignorante patentato, ignorante sarà lei, abbandono, no, lo studio, adesso glielo abbandono devo lo dire, studio, lei è ignorante patentato, abbandono lo studio, sono venuto qui per esporre, prego, il mio pensiero, non per essere insultato, sono venuto qui per aiutare gli italiani, non per essere insultato da lei che ha il terrazzo con sopra le palme e i canguri. Allora, noi non abbiamo niente di meno di tutti gli altri europei, a partire dai tedeschi che vanno in giro con i sandali, con i calzini e vogliono insegnare a noi come si vive. Allora io dico, cosa tedesco, c'entra, amico Deutsch, per prima cosa togli i calzini, poi possiamo cominciare a parlarne, ma ora che si tolgono i calzini si sono già ubriacati di birra e di parlare non c'è verso. Dice, e poi Deutsch, gli inglesi, bravi gli inglesi, bravi gli inglesi, fenomeni, sono i fenomeni gli inglesi, perché? Che guidano a sinistra perché vogliono fare il contrario di quello che si fa in tutto il mondo, guidano a sinistra, bravi, fate il contrario di quello che fa tutto il mondo. Allora cosa fate? Mettete il preservativo dopo che avete fatto l'amore e vogliono insegnare a noi come si vive, bravi, bravi. Ma si fa gli inglesi, applausi, ma chi è che fa? Ma lei si fa gli autoapplausi, ma si rende conto? Non c'è nessuno che le fa gli applausi, se li deve fare da solo. Sto interpretando gli umori di quelli che ascoltano, perché noi, io super sovranista, ho la capacità di interpretare gli umori veri del popolo e quindi dico bravo Garosio. Chi dice Garosio dice fiducia. No, ma tu Alpino, vedi, non mandare, questo, non mandare, no. E poi i francesi ci sono, i francesi, sì, allora i francesi, che hanno una donna che si chiama Le Pen, il pene, siamo a posto, no, chissà dove andiamo a finire. Tra l'altro è anche amica di Salvini, allora ho fatto bene a uscire dalla Lega, altrimenti chissà che sorpresa mi ritrovavo. Vabbè. Tutti questi vogliono insegnarci a vivere, ma sono loro per primi che dovrebbero imparare da noi, e noi saremmo ancora il primo paese al mondo se fossimo un paese dove ci sono solo gli italiani, solo, ecco, gli italiani, solo gli italiani, perché noi non abbiamo niente da imparare da nessuno. I portoghesi, prendiamo i portoghesi, l'unica cosa che sanno fare è prendere i mezzi pubblici senza biglietto, e una volta che hanno vinto l'europeo sembra che hanno vinto chissà cosa. Noi, fratello portoghese, abbiamo vinto 4 mondiali, 34, 38, 82, 2006, e il portoghese ha vinto un mondiale solo, tra l'altro senza pagare il biglietto. E gli africani poi, no, che sono scaltri, vengono da noi perché sanno che è il nostro. Perché vengono da noi gli africani, Milan? Perché sanno, perché, che il nostro è il miglior paese al mondo, e riescono a venire da noi perché siamo troppo tolleranti. E allora io dico, ed dico, è questo il motivo per cui sono qui oggi, per cui sono qui oggi, per fare una proposta di legge, vediamo, per mettere un divieto un divieto. Qual è questo divieto? Impedire alle donne italiane di fare figli con gli africani. Ma le italiane, per legge, e questa è la proposta che presenteremo in Parlamento, le italiane potranno fare figli solo con gli italiani, anzi con quelli della propria regione, anzi della propria provincia, anzi della propria città, anzi della propria via. Anzi, potranno fare figli le italiane solo con uomini della propria famiglia. Ma no, famiglia. Ma no, questo è reato. Non è un reato, è la cosa che può garantire la sopravvivenza degli italiani, dell'etnia italiana. Ma dai, su, allora, l'etnia, parlo? Tu vuoi essere sicuro di andare nella direzione giusta? Hai un fratello, fai un figlio con lui. Sei sicuro che ti viene fuori un italiano vero? Un italiano vero, non quello di un po' di un colore, Alpino, che non si sa da che parte rotto, arriva. Mi sono rotto le balle, senti, tira giù, allora, Garogio, basta. Dai, l'abbiamo fatto parlare anche troppo. Io non lo so, ma chi è che lo fa entrare? Potranno fare figli solo con i parenti stretti. Almeno siamo sicuri che non ci sono problemi. Togli il microfono a questo qui. Dai, ma la deve smettere. Su. Basta anche tu con... Vabbè. Tira la sopravvivenza. Ma gli togli il microfono? Vabbè, saluto Leonardo Manera. C'è Leonardo, un abbraccio ovviamente a lui, ci troviamo domani. Caro Leonardo, eccoci qua. Tua cerchia familiare, partito super sovranista italiano. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.